Hidden in no cover, and I no Gaval spiri mamo gore dole mamo pozzellotto. Yashte yida mamo dago vidya mamo dago chuya. Gaval spiri mamo gore dole mamo pozzellotto. Yashte yida mamo dago vidya mamo dago chuya. Chi chi chi chi. Chi chi chi chi. Ako mi e nascente to ste columiane. Ako mi je našenče to štego ljubljane no blame. Thank you. spiri mamo gore dole mamo pozzello to ya ste ida mamo dago vidia mamo dago chuya kava spiri mamo gore dole mamo pozzello to ya ste ida mamo dago vidia mamo dago chuya chi chi chi chi chi chi chi chi ako mi e na shenche to shite go lubiane no plate chi chi Chichi, ako mi je naše, če to, što ga ljubim.